got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Ah, oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan. No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Ah, volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, se è per questo, mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nutizzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Bentornati a Indovina chi viene a cena da Valentina Furlanetto. Questa sera parliamo, sempre introdotti dalla musica di questo film degli anni 60 che parlava di integrazione, di identità, parliamo anche questa sera di questo tema che ci appassiona. Ne parliamo prendendo spunto da un libro che è stato pubblicato da poco per Erickson Editore. I curatori sono Cristiana Ceci e Francesco Iarrera, che sono qui in studio con me. Innanzitutto benvenuti. Grazie, buonasera. Grazie. Buonasera. Il libro è Ho viaggiato fin qui, storie di giovani migranti. I protagonisti sono proprio loro, in realtà, i ragazzi. Sono dei giovani ragazzi tra i 15 e i 19 anni che per la prima volta raccontano la loro vita, la loro migrazione verso l'Italia, migrazione esterna e anche interna, verso una trasformazione di loro stessi. Abbiamo due protagonisti. Sono Elena, buonasera. Benvenuta, 18enne, sì. Di origine romena. Romena, sì. E poi Kamil, 16 anni, originario della Polonia. Buonasera. Lo spunto è sempre quello di un piatto e sono piatti che si rincorrono in questo libro. Elena. Uno dei miei piatti preferiti è la pizza, la pasta, così che comunque mangiamo ogni giorno. Quello che ho portato oggi invece è un piatto diverso, un piatto della mia cultura. Si chiamano star male. Mm-hmm. Che cosa sono? Sono una specie di involtini a base di carne, verdure e riso, involtinati dentro la foglia della vite oppure la verza. Tu hai scritto una cosa bellissima nel tuo racconto. Mi sento una rondine che migra verso luoghi più favorevoli, ma poi ritorna sempre nello stesso posto, al vecchio nido, a casa sua. Questa immagine mi è venuta ricordando il giardino di mia nonna. Noi ogni anno abbiamo dei nidi in Romania. Esatto. E ogni anno vediamo queste rondini e sono sempre le stesse, che tornano sempre al loro nido e lo trovano lì. Camille, il piatto per te era la cotoletta impanata. Sì, infatti la cotoletta impanata. Milano. Noi in Polonia, per esempio, abbiamo anche noi la cotoletta impanata, che si utilizza con un tipo di carne diversa, che comunque però rispecchia quella che è la cotoletta milanese. Ho portato anche, come piatto tipico mio, ho portato il goulash, che sarebbe un piatto tipico a base di carne. Sono appunto ricordi che fanno tornare in mente la nostalgia di quel bel posto in cui vivevo. And then Non è stato facile, immagino, Cristiana Ceci e Francesco Iarrera, riuscire a far aprire questi giovani, no? Francesco, tu sei un docente di questa scuola e questo progetto libro fa parte dell'esperienza di questo istituto. Certo, un istituto che è il Montale di Cinisello Balsamo, all'interno di un grande parco che è il Parco Nord, e noi come istituto abbiamo il 35% dei ragazzi che sono di origine straniera, quindi il fenomeno è un fenomeno vero, è un fenomeno che ci coinvolge direttamente e ovviamente il nostro obiettivo è quello dell'integrazione. E penso che il fatto che questi ragazzi li abbiamo stimolati a parlare del loro vissuto sia quasi come da una parte un rivivere quello che hanno passato, però dall'altro è anche un passaggio verso l'integrazione. Quindi diciamo è stata un qualcosa che ci sembrava un viatico per inserire questi giovani, queste ragazze soprattutto, nella nostra società. Questi sono i nuovi italiani sostanzialmente, può piacere o non piacere, ma la realtà del futuro è proprio questa. Cristiana Ceci, giornalista e coautrice, no? Insieme al professore. Come vi è venuta l'idea di questo libro? Com'è nata? L'idea è nata proprio vedendo alcuni scritti spontanei, alcuni temi che prima che nascesse il libro come struttura i ragazzi elaboravano già a scuola. E abbiamo pensato di stimolarli ulteriormente a raccontare da queste prime esperienze spontanee, di invece raccontarsi strutturando il tutto in un libro. Abbiamo fatto una specie di, come dire, di richiamo, alcuni non hanno accettato, i nostri 31 piccoli eroi invece sono stati felici di raccontarsi, con in mente appunto un progetto che è doppio. Il progetto del libro naturalmente, e poi a scuola continua, perché appunto i diritti verranno devoluti a progetti mirati all'integrazione dei ragazzi nella scuola, quindi è un po' un doppio percorso. Per i ragazzi è stata una bellissima esperienza, per me è stata un'esperienza emozionante intervistarli ad uno sulla base degli scritti che avevano già elaborato ma che poi abbiamo approfondito, ed è stato un percorso quindi collettivo, interessante, emozionante per loro e per noi tutti, di crescita, di arricchimento anche linguistico, perché ne emerge una nuova lingua, un nuovo italiano, irregolare come la posizione spesso dei ragazzi, ma molto ricco, non impoverito, al contrario arricchito di espressioni nuove, di parole che assumono un significato diverso, il cui significato esplode in mille rivoli, proprio perché a volte non c'è la consapevolezza esatta del lessico. E un quadro d'insieme molto significativo, anche se siamo partiti da una micro realtà che è una scuola, questi 31 ragazzi in realtà possono rappresentano tutte le giovani esistenze che hanno viaggiato, che sono arrivate fin qui e che hanno un percorso non semplice, articolato, ma anche di grande crescita personale. Francesco. Forse all'inizio qualcuno era un po' reticente, ma è successo così, quasi un tam tam. I primi hanno cominciato a scrivere e c'è stato forse anche quasi un desiderio di emulazione, un desiderio di un lavacro quasi delle proprie coscienze, di mettere tirar fuori quello che era stato la loro situazione. Infatti noi ci siamo anche stupiti, perché ci sono anche delle vicende molto molto particolari, situazioni anche diciamo ai limiti dell'ecito per alcuni aspetti, però è venuta fuori questa voglia di raccontarsi, soprattutto devo dire più femminile che maschile, forse le ragazze hanno qualcosina in più da questo punto di vista, e infatti è stata una sorpresa per alcuni aspetti, molto piacevole. Ci fermiamo brevemente, ma torniamo a parlare con gli autori di questo libro Viaggiato fin qui tra pochissimo. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart break. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione! Fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro! Ve lo giuro! We've got the world and all its charms. And when the world is through with us, we've got each other's arms. You've got to win a little, lose a little, and always have the blues a little. Siamo questa sera con Cristiana Ceci, Francesco Iarrera e con soprattutto i ragazzi che hanno consegnato loro le loro storie, e due sono qui, Elena e Camille, che ci raccontano perché hanno deciso di aprirsi, di raccontare il loro arrivo in Italia, le prime difficoltà in questo paese, la nostalgia di casa. Elena, qual è stata la cosa che hai fatto più fatica a raccontare? Visto che parlavamo della necessità di superare anche la propria timidezza. Certo. La cosa più faticosa è stata parlare, tornare diciamo indietro con i ricordi. E diciamo che la parte più dura è stata ricordare il periodo in cui io ero da sola con i nonni. E senza i miei genitori, loro erano qui in Italia a lavorare, cercare di, come ho scritto nel libro, di garantirci un futuro migliore. E di passo per passo ricordare tutta la mia infanzia, che è stata un'infanzia bellissima, nonostante questo. I genitori li vedevo pochissimo, erano entrambi qui. Il primo a partire fu mio padre. Che idea avevi dell'Italia allora? Non avevo nessuna idea, non sapevo... Era un posto nuovo, era un posto che... Io vengo dalla campagna in Romania, abito lì in campagna, tra alberi, natura, animali, fiori, eccetera, eccetera. E venire qui è stato... diversissimo, ho incontrato città, visto palazzi. All'inizio è stato bellissimo e anche un po' spaventoso, diciamo, perché ero abituata alla mia casetta e dalla casetta passare un palazzo di 10 piani a 5 anni magari non è così... La rondine si sentiva un po' persa. Sì, si sentiva un po' persa, piano piano però ritornando a casa sua è diventata cittadina di due mondi. Sicuramente il primo, quello che ho sempre nel cuore, ovvero la mia casa in Romania, ma anche l'Italia, che è diventato ormai la mia casa. Io quando penso a casa, io mi immagino qui, in Italia. A volte mi manca ritornare lì, però ci torno ogni estate comunque. Quindi possiamo dire che non sto mai lontana. È proprio un senso, non riesco a star lontana. Camille, tu sei arrivato in Italia e hai visto tua madre che aveva un compagno, no? Sì, infatti poi ho scoperto successivamente che questa persona qua, che infatti usciva già con mia madre prima che io lo sapessi, e successivamente ho cominciato a sviluppare appunto un rapporto di amicizia con questa persona, e poi una volta che si sono sposati io già la conoscevo questa persona, quindi già la trattavo da tale, cioè già la trattavo come se fosse parte della nostra famiglia. E tu dici mio padre, che è stato lui a spingerti nel primo giorno di scuola a fare amicizia con gli altri. Sì. Quindi in quel momento immagino che sia entrato nella tua vita in maniera decisiva, perché i primi giorni di scuola sono difficili. Sì, i primi giorni di scuola infatti mi ricordo che è stata molto dura, perché parlavo molto male e poco l'italiano. Infatti mi ricordo che non parlavo quasi con nessuno le prime settimane. È stato mio padre difatti a dirmi di andare a cominciare a parlare con qualcuno, e questo infatti è stato l'incentivo che mi ha detto che volevo provare a stare qui che volevo provare a fare delle nuove amicizie, perché inizialmente il mio pensiero era: cavolo, forse secondo me sarebbe stato meglio anche rimanere là. Però poi dopo questa spinta mi sono detto: posso anche provare a dare a questo posto un'opportunità. Infatti gli ho dato un'opportunità e oggi infatti mi trovo bene. Tutti e due volete rimanere in Italia? Sì, sì, decisamente. Adesso mi sento molto meglio qua, e naturalmente manca moltissimo ancora il mio paese, ma sicuramente questo adesso è un posto che definisco casa e che mi piace stare qua. Leggerei un passo di un racconto di un'altra ragazza che si chiama Bianca, 15 anni, della Romania anche lei, e dice: la prima a venire in Italia è stata mia madre, mentre io sono rimasta con mio padre in Romania. Abitavamo in un piccolo paese di montagna dove andavo da sola all'asilo e mi sentivo libera e spensierata. Quando il papà era al lavoro mi lasciava dalla nonna o dalla zia. In quell'anno di separazione da mia madre ci sentivamo al cellulare quasi ogni sera e mi spediva sempre regali. Così, anche se non sapevo esattamente dove fosse la mamma, la mia prima immagine di quel paese misterioso era l'Italia e l'aroma del cioccolato. E anche la mamma da lontano profumava di cioccolato. Eppure nel momento in cui tornò da noi a casa non la riconoscevo più. Sicuramente il filo conduttore è questo strappo che da bambini hanno vissuto dalla famiglia. Tuttavia queste vanno anche considerate storie a lieto fine, perché tutte finiscono con il ricongiungimento e tutte finiscono con il perdono, se mi è concesso il termine un po' forte, dei ragazzi, ormai ragazzi, quindi adolescenti, mentre da bambini la sensazione dell'abbandono c'è stata e lo riconoscono. Poi, una volta ricongiunti ai genitori qui, comprendono la motivazione dell'assenza dei genitori e capiscono nel profondo, visto che si aprono nuove opportunità, nuove speranze per il futuro, comprendono nel profondo il perché di quell'abbandono, di quella separazione. Quindi, nonostante sia stato un percorso psicologico molto difficile, molto più difficile rispetto ai nostri figli che vivono stanziali e fermi con le loro famiglie fin da piccoli la maggior parte, tuttavia resta una sofferenza, ma che si tramuta in riconoscenza, gratitudine, speranza per il futuro e coesione familiare. Su questo punto dei ricordi d'infanzia è stato uno di quelli più difficili da far emergere nei ragazzi, perché c'erano rimozione, c'era nostalgia, un misto, un groviglio di sentimenti non facile, una matassa. Tuttavia credo che insieme questa matassa in parte è stata districata con lieto fine. Tra l'altro, una cosa bella che volevo dire, bella comunque, che può far capire le nostre paure, per esempio, nei confronti, le nostre paure da italiani, cittadini italiani vecchi, diciamo nei confronti degli stranieri, sono le stesse per alcuni aspetti che loro hanno nei nostri confronti. Ci sono delle ragazze giovani che non escono la sera perché hanno paura, no, di quello che può succedere in città, insomma, in una metropoli come Milano. Quindi le nostre paure sono anche le loro paure. Adesso cito Cristiana, che ha fatto l'introduzione, è bellissima, qui parla dell'immagine del film di E.T., no? Dove il ragazzo, il bambino, si incontra con l'alieno. Non grida solo il bambino perché vede l'alieno, anche l'alieno ha paura del bambino. Per cui diciamo, le paure non sono solo le nostre, mettiamoci anche nei panni di chi ha fatto questo viaggio e soprattutto che ha avuto forse più difficoltà a inserirsi. Telefono? Ha detto telefono? Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono! Oh, casa! Hai ragione, è la casa di E.T. quella. La paura in questo libro emerge fortissima e anche in modo a volte un po' buffo, proprio è una paura con gli occhi del bambino, la paura di chi arriva da un paesino, ovunque esso sia, addirittura da un paesino del profondo della Cina, c'è anche una testimonianza cinese, dalla campagna, e arriva a Milano e in autobus da Malpensa vedono palazzi immensi, gente vestita in modo strano, strano, strano è la parola che ricorre, concetto molto relativo appunto, la paura di perdersi in questo reticolo di strade, la paura di questa sensazione ovattata in cui non comprendi la lingua. Quindi i teenager italiani, i loro coetanei, devono comprendere questa paura, aiutare, credo che possa essere anche un percorso di aiuto dei loro coetanei arrivati da lontano, prendersi per mano e ricevere anche la ricchezza di un'esperienza diversa. Elena, l'hanno letto i tuoi genitori questo libro? No, non hanno ancora avuto l'occasione di leggerlo, però ma saranno molto orgogliosi. Contenti, molto, sicuramente molto fieri. Camille? I miei l'hanno letto e erano davvero colpiti da ciò che avevo detto ed erano contenti che avevo deciso di scrivere, appunto, e di partecipare anch'io a questa esperienza. Voi avete la cittadinanza italiana? No. Sì. Sapete che la legge sulla cittadinanza italiana giace da mesi ormai, senza che ci sia un iter positivo. E fra di voi a scuola che cosa dite di questo libro? Beh, sicuramente abbiamo avuto una grandissima opportunità di raccontarci, di essere ascoltati, cosa che non capita spesso. Io ho appunto ho letto questo libro e alcune volte parlo con questi miei amici che anche loro fanno parte di questo libro e gli dico: senti, ho letto il pezzo del tuo libro, mi è piaciuto molto. E lui mi fa: ah sì, davvero, come ti è sembrato? E dico: ah sì, qua rispecchia, è proprio quello che sei, rispecchia esattamente quello che chi sei e che cosa fai. E quindi è stato, secondo me, appunto, una cosa molto bella. E non mi aspettavo assolutamente di far parte di questo. Ci sono momenti di commozione, ora sono molto felice perché finalmente emergono anche i genitori dei ragazzi che vengono alle presentazioni, fino ad ora una presenza silente dietro, tutti devo dire hanno accettato con grande coraggio che i loro figli raccontassero le storie, non era scontato perché i racconti appunto a volte sono anche tragici e quindi anche per i genitori è stata una grande presa d'atto, una grande volontà, un grande coraggio hanno dimostrato. Quindi a me ha colpito proprio le lacrime, ma soprattutto mi hanno colpito le lacrime felici. C'è stata una ragazza che continuava a piangere, io mi sono fermata durante l'intervista e lei ha detto: no, devi andare avanti perché sono lacrime di felicità. Cioè la liberazione, finalmente io parlo, finalmente racconto, e quindi sto piangendo perché la nostalgia, perché i ricordi sono dolorosi, ma sono felice perché li sto tirando fuori, e questo libro è stato un'opportunità da questo punto di vista per loro. Allora li ringraziamo, questi genitori e questi ragazzi. Grazie a voi che avete partecipato, grazie a Elena, grazie a Camille, grazie a Cristiana Ceci, a Francesco Iarrera. E il libro è Ho viaggiato fin qui, storie di giovani migranti, che è anche una pagina Facebook dal 10 di maggio, dove i ragazzi continuano a raccontarsi, a mettere le foto, che voi potete visitare per vedere i contenuti multimediali che sono partiti da questo libro Storie di giovani migranti, che trovate in libreria. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Peter Bescapè in regia, a tutti voi per l'ascolto. A sabato prossimo, ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.